Eccoci a Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15, giovedì 19 maggio del 2016. La frequenza l'ho data, però potete ascoltarci anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page c'è Ascolta la diretta. La scaletta e tutte le informazioni sulla trasmissione le trovate sul sito della radio, sempre sull'home page, colonna centrale trasmissioni, alla voce Visionari. Idem per Facebook, sulla pagina Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Radio Onda Rossa dal 1977, libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Ognuno e ognuna di voi può contribuire a farla vivere. Uno dei modi è la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 61804001, ma un altro modo, altri modi digitali, li trovate sul sito della radio, sempre sull'home page c'è alla voce Sostieni. Ritroviamo Antonietta De Lillo, regista del film partecipato Oggi Insieme, domani anche in uscita in sala. Oggi giovedì 19 maggio, ne avevamo parlato con lei anche nello scorso gennaio. A questo film abbiamo dedicato anche la copertina di questa settimana con una foto di scena. E Antonietta, ben ritrovata. Grazie per la copertina e ben ritrovata a tutti voi. Bene. Allora Antonietta, per chi ci ascolta, ricordiamo questo progetto, cos'è Oggi Insieme, domani anche. Oggi Insieme, domani anche, film partecipato, e l'idea di realizzare un film attraverso anche il contributo di tanti altri autori come me. In particolare sono più di 30 gli autori che hanno contribuito a realizzare questa grande inchiesta sull'amore, e che finalmente e anche in maniera molto miracolosa arriva nelle sale italiane, cioè esce a Napoli, a Milano, a Bologna, a Catania, a Bari, a Roma ovviamente. E questo è un piccolo miracolo, perché stiamo parlando di un documentario molto particolare, che comunque è particolare anche nel nello sguardo, perché proprio questa idea che è fatto da tutti noi, le proiezioni che abbiamo fatto a partire da Torino, al bel riconoscimento dei Nastri d'Argento che abbiamo avuto, all'anteprima napoletana, abbiamo visto che il pubblico si identifica ed è un modo per guardarci attraverso l'amore, attraverso i vari tipi di amore che esistono nella nostra società. Ed è un documentario dove si sorride e a volte si ride. Antonietta, partiamo dalle origini. Come è nata l'idea e il progetto? È nato tanto tempo fa, nel 2010, infatti questo è il secondo film partecipato, il primo era Il pranzo di Natale, fatto insieme alla Mare Chiaro Film, che è una società da me fondata, che ora c'è un'equipe veramente che senza di loro il film non si sarebbe mai fatto. Penso ad Alice Mariani, a Cristina Pignalotta, al montatore Pietro Donofrio, Giorgio Franchini, insomma penso alle tante persone che hanno creduto in questo progetto, e ai registi, insomma c'è una partecipazione di registi navigati e importanti come Agostino Ferrente, Marco Puzzoni, Piperno, che anche fa parte del coordinamento artistico, sicuramente mi dimentico qualcuno e me ne dispiace. Quindi è un progetto che ci sta dando soddisfazione, non solo perché il risultato è un film documentario che, insomma, ripeto, si sorride, cosa assai rara e si pensa, ma ci dà soddisfazione perché abbiamo visto che nel momento in cui hai un progetto, poi anche tanti colleghi, tante altre persone ci partecipano, e questo in un momento dove secondo me io almeno soffrivo di solitudine, questo mi ha fatto un po' dimenticare. Ecco, proprio in questo senso, Antonietta, volevo chiederti com'è nato. Mi sono dimenticato il coordinamento artistico, Anna Maria Patetti, Antonio Pezzù, insomma sono veramente tante, tante. Per saperne di più basta seguirci. Sì, su sì. Nostri social, che sono Mare Chiaro Film, che sono Facebook, insomma come tutti noi ormai. Ti stavo chiedendo, Antonietta, ecco, come è avvenuto tutto questo questa partecipazione allargata e poi con quali indicazioni ognuno ha lavorato? È avvenuta con l'idea che si lancia un tema, in questo caso era l'idea dell'amore, e di realizzare documentari, animazioni, lavori autonomi. Che possono avere, come dire, una loro circuitazione, infatti tra i fiori all'occhiello del progetto sicuramente c'è Forbici di Maria Di Ratta, che è un piccolo cortometraggio sul femminicidio che è andato a oltre 70 festival. Quindi si dà il tempo ai partecipanti o anche a chi ha già realizzato un lavoro, come il bellissimo passo a due di Teresa Iaropoli, far vivere il proprio lavoro, e poi si ha la generosità, l'idea di mettere a servizio le proprie immagini per un film di remix. E in questi anni, che sono stati tanti, 5 anni, abbiamo realizzato anche convegni, infatti noi l'ultima volta ci siamo incontrati proprio in un convegno organizzato che si chiamava Use e Getta, abbiamo organizzato rassegne, workshop, insomma direi che anche il percorso, il viaggio per arrivare al film finale, non dico che è più bello, ma è bello quanto il film. Senti, è bello, è particolare, ci dà molta soddisfazione. Ovviamente abbiamo già un altro tema, perché finito questo abbiamo iniziato a ripensare al prossimo film. E rispetto a questo, la curiosità anche per chi ci ascolta, quali sono gli episodi, i momenti più sorprendenti che hai trovato su questo tema amore, anche attraverso gli occhi degli altri e delle altre? Guarda, i momenti direi che sono tutti, sono proprio questi frammenti messi insieme dove ci sono gli amori più tradizionali da quelli più non solo del presente ma addirittura del futuro. I ragazzi fuori al Gay Village immaginano addirittura gli amori senza più genere, insomma ci sono tutti, e quello che mi piace è proprio la convivenza. Noi siamo stati abituati, soprattutto ora con questo dibattito politico così acceso, che o si è tradizionali o si è moderni, o si è per le unioni civili o si è contro. Ecco, in Oggi Insieme Domani Anche convivono tutte le storie in in una possibile armonia. Questo mi piace del film, che non ha che proprio il fatto che viva di più sguardi, questi sguardi stanno insieme uno accanto all'altro e non uno contro l'altro. Sicuramente devo dire che chi andrà a vedere il film rimarrà incantati da una coppia di anziani intellettuali, lei Luisa Adorno, una scrittrice che probabilmente molti conoscono, e questi due signori che stanno insieme da oltre 60 anni irrompono nel film e ci strappano un sorriso inevitabilmente. Antonietta, com'è cambiato il patto, chiamiamolo così, tra le coppie attraverso le generazioni? È cambiato perché proprio quello che esce fuori anche attraverso questa casualità di storie è che da una parte oggi a 40 anni dal divorzio, a 50 da comizi d'amore, in realtà finalmente abbiamo effettivamente introiettato dentro di noi la possibilità che ci si può lasciare e ci si può continuare a voler bene, cosa senza odiarsi. Ecco, io credo che sia un film contro l'odio. e in contemporanea però ci sono delle storie di resistenza all'amore che sono altrettanto forti e commoventi. C'è la storia di queste due donne milanesi, che ora non ricordo il nome, che è una storia bellissima, una storia che dura da 70 anni e va da 60 anni, scusami, e va al di là del genere, al di là, insomma, da una parte gli scenari sono in movimento, dall'altra parte è sempre abbastanza forte e commovente quando l'amore resiste all'amore e al tempo. Mm-hmm. Allora Antonietta, stasera sarete all'Apollo 11 qui a Roma? Stasera io sarò all'Apollo 11, poi però a Beltrade ci sarà Teresa Iaropoli, a Milano, a Bologna c'è stata Federica Iacobelli. La bellezza di essere un film partecipato è che siamo tanti autori e quindi ci possiamo spargere a Catania ci sta Pasquale Marino. E quindi anche il fatto di non essere solo io a portare in giro il film, ma in realtà anche tutti quelli che ci hanno partecipato, per me è un grande piacere e onore. E vorrei dire che, poiché credo che anche questa distribuzione è un po' condivisa e partecipata, se qualcuno ci sente e va a vedere il film, per noi è importante che ci dice che cosa pensa, se gli è piaciuto, se porta altre persone o anche non le porta, ma comunque che per me è importante sentire il pubblico. Bene, allora rimandiamo per il calendario di proiezioni e tutte le informazioni alla pagina Facebook di Oggi Insieme Domani Anche, e ci sono anche altri canali, immagino, vero Antonietta? Certamente, marechiarofilm.it, ci sta la pagina di Mare Chiaro Film, ci sta Twitter, insomma ci sono tutti, ormai abbiamo tutti noi una vita parallela nella rete, noi diciamo così partecipato quella rete diventa veramente importante, e forse probabilmente se non c'era la rete forse mai un film così poteva aspirare a arrivare in distribuzione e a essere conosciuto, non dico in tutta Italia, ma in una parte per noi rilevante di italiani. Bene. Antonietta, ci sentiamo alla prossima, un abbraccio e complimenti anche per queste idee, queste realizzazioni di gruppo. Un abbraccio anche a te e grazie sempre, buon pranzo, buon pranzo. Ciao. Ciao Antonietta. Antonietta De Lillo, regista del film partecipato Oggi Insieme Domani Anche, in uscita in sala da oggi giovedì 19 maggio. Eccoci con Cristiano Regina, regista del documentario La parte che resta. Ben ritrovato Cristiano. Buongiorno a tutti, grazie Federico, ben ritrovati. Come va? Benissimo, benissimo. Benissimo. Allora, con te per parlare di questo lavoro, intanto descriviamolo Cristiano, La parte che resta. Sì, La parte che resta è un lavoro, un film documentario che ho realizzato nell'estate del 2014 presso il centro di accoglienza Caritas Porta Aperta. È un centro dove trovano ospitalità persone senza fissa dimora, di fatto, sia italiani che stranieri. Io mi sono concentrato in particolare nel dormitorio e ho corso appunto lì 3-4 mesi in compagnia degli ospiti, stringendo con loro una relazione particolarmente profonda, cercando di raccontare e rappresentare le loro storie. È stata sicuramente un'esperienza molto molto forte. All'inizio non è stato facile chiaramente farsi accettare diciamo da loro, e poi col passare del tempo si è creata una bellissima relazione, loro si sono fidati, si sono aperti. L'idea dove è venuta? Allora, inizialmente si trattava di un lavoro su committenza, come accade spesso in questi casi, nel senso che il centro mi aveva richiesto di fare un lavoro cercando appunto di raccontare la struttura. Io inizialmente avevo qualche dubbio, titubanza riguardo, perché mi rendevo conto che si trattava di un'operazione particolarmente complessa, perché è difficile potersi medesimare chiaramente in quel tipo di condizione. Allora ho preferito non accettare quell'invito al racconto della struttura, ai servizi della struttura, quanto piuttosto cercare di calarmi il più possibile nella realtà, e stando soprattutto con loro senza la telecamera all'inizio, almeno cercato di stabilire questa relazione, e poi gradualmente, man mano che si creava questa confidenza, questa apertura, ho provato appunto a entrare nella quotidianità, nelle storie, senza però appunto più soffermarmi sul centro, quindi sul centro di accoglienza, più diciamo un lavoro che si concentrava sulle storie di ognuno. E la risposta che ho cercato appunto di darmi era: cosa resta, ecco appunto il titolo, la parte che resta, cosa resta quando si è perduto tutto, cioè quando fai fatica a poterti identificare il ruolo sociale, perché non è più appunto casa, famiglia, lavoro, qual è la parte di te che è irriducibile, che ti contraddistingue anche quando fai fatica appunto a identificarti in ciò che fai. Senti Cristiano, con quante persone ti sei trovato a interagire? Allora, inizialmente appunto sul piano, al primo piano del dormitorio c'erano una ventina di persone, che sono appunto gli ospiti del dormitorio. Tra questi ne sono rimasti una decina che erano interessati al progetto, e poi ancora di più, diciamo, è stata un'ulteriore scrematura legata alla fiducia che si è creata tra noi, intorno ai 5 o 6 ospiti. Diciamo lì la selezione è stata abbastanza fisiologica, naturale. Le persone che erano appunto interessate a conoscermi, a capire il senso della mia presenza lì, si sono avvicinate, e le altre invece erano un po' più defilate. Però con 5-6 si è creato e si è stabilito un rapporto più duraturo. Io di fatto da luglio al ottobre del 2014 sono stato tutti i giorni con loro, quindi ho mangiato con loro, qualche volta mi sono fermato la notte. E però la cosa che ci tenevo spesso a ripetergli è che io, a differenza loro, avevo una casa, avevo un lavoro, e quindi non avrei mai potuto immaginare cosa significhi trovarsi in quelle condizioni. Però almeno, quindi molta sincerità da questo punto di vista, però almeno il tentativo era quello di raccontare la relazione che stava nascendo tra noi all'interno della struttura in quell'incontro. Ed è interessante perché proprio attorno alla telecamera, alla mia presenza, si è creato questo gruppo di persone che prima non c'era di fatto, che poi si è dissolto quando io poi sono andato via. Quindi c'era proprio una condivisione anche dell'intento di portare a fine questo progetto, che è stato collettivo, condiviso. Cristiano, che realtà ti hanno raccontato queste persone di vita? Ecco, noi ci siamo soffermati più che altro sul presente, quindi abbiamo ho cercato di evitare di spettacolarizzare la loro sofferenza, sì, sì. O di farmi raccontare la ragione per la quale loro erano arrivati a quel punto. In realtà abbiamo cercato soprattutto di riflettere sul presente, su quali possono essere le prospettive dopo che appunto hai perduto tutto, sì. e appunto cosa resta. Io, a meno che loro non fossero loro a raccontarmi, ho cercato di evitare le domande che riguardavano il passato, che possiamo più o meno tutti immaginare. Certo. Un dato sicuramente interessante e molto problematico di questi anni è che ci sono tanti italiani. Mm-hmm. Uno potrebbe immaginarsi appunto che ci sia una prevalenza di cittadini stranieri che frequentano questi centri. In realtà in questi anni, in questi tempi di crisi, basta pochissimo per trovarsi in una condizione, diciamo, di difficoltà e di esasperazione. Basta appunto una separazione o perdere il lavoro e non avere, diciamo, una rete familiare che ti protegge, ed è un attimo trovarti in quella condizione. Quindi proprio per questa ragione ho cercato di evitare il più possibile di andare indietro nel tempo, quanto invece provare a capire dove e in che modo si può riniziare, si può ripartire. Ecco, proprio a proposito delle prospettive, Le prospettive poi sono in realtà quantificabili, perché possiamo in realtà fare riferimento al campione che ho intercettato. Mm-hmm. Alcuni di questi sono riusciti a rialzarsi, a trovare appunto delle prospettive generative. Quindi c'è stato un signore che ho conosciuto all'interno del centro che ha aperto un negozio, una panetteria, visto che appunto all'interno del centro tra l'altro si occupava della raccolta del pane, quindi diciamo è stata importante la sua esperienza nel centro di accoglienza. Qualcun altro ha trovato lavoro, qualcuno ha trovato l'amore e quindi può ripartire diciamo in un percorso di coppia. Purtroppo qualcun altro si è perduto ancora di più, perché poi è chiaro che in quelle situazioni ci sono poi condizioni di dipendenze, di disagio profondo. Quindi posso fare riferimento al gruppo di persone con cui ho interagito. Ci sono alcune storie positive ed altre un po' meno, però sicuramente se vogliamo diciamo trarre alla fine della storia, del percorso, una conclusione, è che sicuramente resta la volontà di condivisione e di cooperazione anche e soprattutto in una condizione così difficoltosa. Cioè si riparte insieme. C'è comunque la possibilità di ripartire se si crea una relazione profonda con l'altro, altrimenti il rischio è che si sprofonda nell'abisso in solitudine. Ecco. Ecco, quindi ci sono anche momenti importanti di condivisione, non del vissuto quotidiano, e anche delle forme di solidarietà tra queste persone. Sì, diciamo proprio nel gesto personale dell'uno a uno, diciamo è difficile riuscire a inquadrarle all'interno dell'istituzione del centro, ma noti e capisci che laddove fai fatica a identificarti in una, come dire, in un ruolo sociale, perché appunto non hai più quegli appigli, quelle maschere se vogliamo in alcuni casi, quello che emerge è veramente la tua reale essenza, e la tua reale essenza poi pone le condizioni affinché crei relazione con l'altro quando hai perduto tutto, almeno sì. Questa è stata la mia impressione. Mm-hmm. E l'ho vista anche poi nella volontà che avevano superate le iniziali diffidenze nel raccontarsi, cioè poi di fatto se c'è stato racconto e narrazione delle loro storie perché loro hanno accettato di stabilire una relazione con me, quindi c'è questa profonda voglia di relazionarsi all'altro e soprattutto chiaramente tra loro, come modo per ripartire e per iniziare. Cristiano, che passaggi farà questo documentario? Che destino avrà? Allora, il documentario è girato in qualche festival, è stato anche al Napoli Film Festival dove ha ricevuto un premio come migliore autoproduzione, e poi è entrato all'interno del circuito Docking Tour 2016 dell'Emilia Romagna, per cui sta girando in alcuni cinema della regione, e quindi diciamo ecco al momento è visibile in qualche sala regionale. Poi come sai le logiche distributive soprattutto per il cinema reale sono ardite e complesse, e chiaramente non un film che ha distribuzione. Abbiamo organizzato degli eventi soprattutto in Modena e provincia, dove anche il Festival della Filosofia è stato visto, e insomma diciamo ha avuto una distribuzione soprattutto sul territorio, trattandosi poi in realtà di un centro che è a Modena e che è molto conosciuto qui. Allora, ci lasci tutti i riferimenti, Cristiano, per saperne di più? Sì, chiunque potesse avere informazioni sul film può andare sul sito dell'associazione Voice Off, quindi www.voiceoff.it, e la mail è ello@voiceoff.it. Possiamo sicuramente proporre e organizzare delle proiezioni per chiunque appunto potesse essere interessato. Bene. Cristiano, un abbraccio e alla prossima. Un abbraccio a voi, alla prossima, grazie. Ciao. Ciao. Cristiano Regina, regista del documentario La parte che resta. Giulia Giorgi, regista del documentario Break the Sea Documentary, che sarà presentato a Comunia, qui a Roma, del prossimo 21 maggio, cioè sabato. Giulia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Allora, di cosa si tratta? Allora, Break the Siege è stato girato nel 2014 durante un progetto nazionale organizzato da Associazione Palestina a Ramallah, che ha portato praticamente una parte della scena hip hop romana in Palestina, e quindi abbiamo avuto come rapper Coez, Kento, Lucci e Prisma dei Roma Underground, dei ballerini breakdance, fra cui io perché ballo anche breakdance fra le mille cose, Temare, Bibo e Xedo, dei ragazzi che facevano graffiti, Gojo nello specifico, e poi abbiamo avuto dei beat di Ice One. Tutto questo perché nel corso di una settimana praticamente a Ramallah è stato realizzato un disco che uscirà in estate fra rapper palestinesi e italiani, uno show di breakdance, e sono stati fatti insomma diversi graffiti nella città di Ramallah. Durante questa settimana praticamente abbiamo girato questo documentario che vuole rappresentare uno spaccato della scena hip hop palestinese che negli ultimi 10 anni è cresciuta moltissimo. Senti Giulia, praticamente è una carovana numerosissima. Quante persone, quanti artisti eravate? Allora, così palestinesi eravamo una 30ina di persone a partecipare al progetto, sì. Senti, come è cominciato tutto? Da dove è partita l'idea? L'idea è partita da Eleonora Poggi, che è una ragazza che si occupa di giornalismo e fa parte di Assopace Palestina, che era diverso tempo che aveva l'idea di congiungere diversi artisti hip hop per andare in Palestina, proprio perché comunque la scena hip hop palestinese è molto florida. Io l'ultima volta c'ero stata 10 anni prima, e quando comunque i Dam avevano iniziato a diventare sempre più famosi come gruppo rap leader, diciamo, in Palestina, e poi man mano si è diffuso sempre di più a macchia d'olio, e adesso anche la breakdance ha preso molto più piede rispetto a prima, mentre prima, diciamo, era un po' tutto focalizzato più sul rap, ecco. Senti, com'è la realtà che avete trovato? Beh, la realtà che abbiamo trovato, io soprattutto vedendola anche in paragone a una decina di anni prima, è che anche il concetto di resistenza è un po' diverso, soprattutto nei ragazzi più giovani. C'è tanta voglia di fare arte, di esprimersi, e quello che un po' vedi è una questione di contrasto, oltre che nei confronti dell'occupazione, anche dell'autorità nazionale palestinese, che comunque sotto tanti punti di vista è messa in discussione, anche se non apertamente. Infatti una cosa molto carina che è venuta fuori anche nel disco e che i rapper hanno deciso di mettere in evidenza è: ragazzi, parliamo di quello che vogliamo, non necessariamente dobbiamo parlare di... ognuno esprime quello che vuole, e infatti è quello che poi è venuto fuori. Ci sono testi d'amore piuttosto che testi politici, piuttosto che riflessioni personali, come si l'ha definiti, ego trip, perché comunque è molto importante che, al di là di tutto quanto, vedere l'umanità di tutto quello che avviene. Alla fine i ragazzi sono ragazzi comunque in tutto il mondo e hanno poi le stesse necessità. Senti, c'è la volontà di andarsene o comunque di restare e determinare la situazione in qualche modo? Beh sì, fondamentalmente comunque tutti quanti i ragazzi stanno cercando di costruire qualche cosa giù. Parecchi adesso che sono passati anni, soprattutto i ballerini, si stanno muovendo molto a livello internazionale, e soprattutto i più grandi, ad esempio, anche che fanno rap. C'è chi ha aperto uno studio di registrazione, il ragazzo che si è occupato del beatmaking, che poi ha mixato anche il disco, ha stato, diciamo, la prima sala di registrazione hip hop in West Bank, quindi insomma c'è un tentativo di portare avanti anche proprie passioni e crescerle comunque all'interno del proprio paese. Uno degli obiettivi del progetto era cercare di mettere insieme anche artisti sia di Gaza che della West Bank che Palestina 48. Su Gaza ovviamente ci sono stati problemi perché non è stato possibile far arrivare nello specifico i Camp Breakers, che sono un gruppo di breakdance di Gaza, molto insomma ormai diventato famoso negli ultimi anni, però con loro abbiamo organizzato nello spettacolo finale una partecipazione a distanza, quindi praticamente loro hanno organizzato un video che noi poi abbiamo rifatto in coreografia durante lo show al Ramallah Cultural Palace. Quindi nonostante la distanza e lo spezzettamento insomma geografico causato dall'occupazione, comunque è stato possibile in qualche modo unire gli artisti da tutte le parti della Palestina. Giulia, i testi dei rapper di cosa parlano? Allora, i testi sono in arabo e in italiano, e poi quando appunto uscirà il disco tutto sarà ovviamente tradotto in tutte e due le lingue nel booklet. Appunto i testi, come dicevo prima, trattano da amore fino a riflessioni personali sulla situazione palestinese, sul concetto di resistenza. Ogni artista in maniera casuale si è accoppiato con altri tirando fuori 10 tracce e le varie coppie fondamentalmente hanno deciso su che cosa andare avanti a discutere. Senti, invece l'accoglienza da parte dei giovani di questo tipo di musica, come funziona? C'è coinvolgimento? Allora, questo infatti è uno dei temi che trattiamo anche all'interno del documentario. Sui giovani comunque c'è una buona presa, c'è un buon piglio, anche se comunque è considerato sempre un prodotto straniero. E infatti soprattutto per quanto riguarda sia le parti più conservatori sia le persone più avanti con l'età, spesso vengono accusati i ragazzi di essere filoamericani piuttosto che prendere prodotti stranieri e stravolgere la cultura nazionale. E uno dei ragazzi fa una riflessione molto carina e dice: è come se io ho comprato un bicchiere magari in America, però lo sto riempendo con dell'acqua palestinese. Quindi l'idea è: ok, questo è un mezzo che è nato altrove, ma noi lo stiamo utilizzando poi i nostri figli. Giulia, a parte che ti sto sentendo un po' peggio adesso nell'ultima parte della tua risposta, volevo chiederti come si articolerà la giornata del 21 maggio a Comunia qui a Roma. Sì, allora alle 8 di sera diciamo ci sarà l'apertura e col DJ set di Skills. E alle 9 verrà fatta poi la proiezione. Il documentario dura comunque 23 minuti, insomma è abbastanza corto, e subito dopo passeremo al dibattito con Kento, Prisma, Bilbo Xedo, che sono comunque tutti partecipanti del progetto, e poi da lì ci sarà musica passata sempre da The Skills, Cerchi Aperti, Breakdance, un piccolo live di Kento e di Prisma. Senti, com'è stata l'adesione degli artisti romani a questo progetto? È stata accolta con entusiasmo da tutti, quindi insomma anche con abbastanza sorpresa, perché alla fine stai comunque proponendo un viaggio in Palestina. Alcune persone possono anche sentirsi spaventate da questa cosa, e all'inizio ci sono state un pochino di paure, sì ma com'è, come funziona, però invece si sono poi trovati tutti benissimo, e comunque da quando hanno sposato il progetto sono state molto coinvolti, ecco. Senti, e per saperne di più quali canali ci sono in rete? Allora, si possono trovare più informazioni sul sito della Baburka Production, che è la produzione indipendente che si è occupata poi di girare il documentario. Su www.baburkaproduction.com, nella sezione progetti, si trova il Pop Smash the Wall, e all'interno c'è una descrizione del progetto, c'è il link al trailer, le rassegne stampe, quindi insomma lì si possono trovare tutte le informazioni. Ci dici anche qualcosa su questa esperienza Baburka? Allora, la Baburca nasce come collettivo cinematografico circa 4 anni fa, e Baburca in realtà è una parola somala che significa la tua macchina, che sarebbe la tua macchina produttiva, che abbiamo fondato io e Amin Nur, un attore che poi adesso è uscito insomma dal progetto, e nel corso del tempo siamo cresciuti tanto da aver creato una cooperativa produttiva, e noi siamo tutte maestranze che lavorano nel cinema, dal trucco al montaggio, la scenografia, operatori di camera, e nel corso del tempo siamo riusciti a fare un bando dell'Unione Europea e a vincerlo miracolosamente, e quindi ad acquistare anche dell'attrezzatura, e adesso abbiamo messo proprio sulla nostra produzione, siamo di base a Tor Pignattara, e mettiamo a disposizione diciamo i nostri spazi e le nostre competenze per persone che comunque hanno un po' la nostra visione di cinema indipendente, fatto come proprio come idea di cinema, come arte condivisa. Bene Giulia, tutte le indicazioni ce le hai date, e io ti ringrazio, un in bocca al lupo per questa giornata di sabato 21 maggio, e a risentirci presto. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Giulia Giorgi, regista del documentario Break the Siege Documentary, che sarà presentato all'interno di una manifestazione, una serata più articolata qui a Roma, a Comunia, sabato 21 maggio. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Le informazioni le trovate sul sito internet della Radio Onda Rossa.info, sull'home page, colonna centrale, alla voce trasmissioni Visionari, e poi sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. In collegamento con Marco Carlucci, regista del documentario La centesima scimmia, che è uscito online. Marco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Era un po' che ci inseguivamo con questo lavoro, alla fine ci siamo riusciti. La centesima scimmia, descrivicelo un po', Marco. Ma La centesima scimmia è un film documentario inchiesta, come ben sai, ormai da circa 10 anni sto seguendo questo filone, chiamiamolo a forte contenuto sociale, e questa volta abbiamo acceso i riflettori su quello che è la, come dire, questa nostra cara dolce moneta unica, che è l'euro, e siamo andati un po' ad approfondire la nascita di questa moneta e soprattutto l'utilizzo e le finalità sociali della stessa in relazione proprio ai fatti recenti degli ultimi anni, che appunto, come ben sai, stanno causando crisi a raffica, insomma, partendo dalla Grecia, Portogallo, il nostro bel paese, ma non solo, insomma. Quindi è un film reportage che racconta, come dire, un'altra realtà molto meno promozionata o diffusa, che è molto critica, ma che vuole aprire appunto uno squarcio su quella che è la condizione attuale della nostra Europa, in relazione anche al fatto che probabilmente si è voluta prima fare un'Europa a forte trazione finanziaria prima di creare un'Europa dei popoli. Marco, come è cominciato il progetto? Guarda, il progetto nasce, come spesso accade nei miei film documentari, da una sorta di richieste di temi che si rincorrono, parlando con personaggi, blogger, insomma, scrittori, economisti. In questo caso mi si è aperta l'attenzione, come sempre, da cittadino, e quindi non da esperto della tematica, perché era una mia finalità artistica quella di rigirare con gli occhi del cittadino, non dell'esperto, quello che si vive, no, quotidianamente. E quindi nasce da un interesse comune, con alcuni collaboratori, persone con le quali ho collaborato anche in passato, che hanno affrontato benissimo questa tematica, come Monia Benini e Alberto Medici, che hanno scritto parecchi libri in precedenza di questo documentario. Abbiamo pensato di farne un video racconto. ed è partito questo viaggio attraverso vari paesi europei, Grecia, Spagna, Italia, Inghilterra, Irlanda, quindi abbiamo girato anche molto, insomma, per l'Europa, cercando appunto di dare una testimonianza diversa da quella che appariva poi dai media, dai telegiornali. Ad esempio in Grecia, quando sentiamo dire la Grecia in crisi, poi improvvisamente la Grecia finalmente uscita dalla crisi, adesso nuovamente la Grecia in crisi. Quando siamo andati lì abbiamo parlato con le varie associazioni, con insomma gli addetti ai lavori, e abbiamo capito di un paese praticamente in ginocchio dall'austerity, dalla cosiddetta austerity, e già due anni fa avevamo questa percezione di immobilismo, quindi quasi di una sensazione di rassegnazione da parte dei cittadini greci. E quindi è un viaggio che arriva fino a Bruxelles, proprio al nucleo dell'Europa, e che porta la testimonianza di economisti, scrittori, blogger, anche europarlamentari, che chiamiamoli euroscettici, ma non è un fatto di euroscetticismo, perché non è un documentario strettamente critico nei confronti dell'euro, ma dalle finalità, dai motivi per i quali si portano avanti appunto queste tesi, diciamo, che vanno in contrapposizione con quello che poi sono i concetti base che sentiamo tutti i giorni ai telegiornali, che quindi usciremo dalla crisi quanto prima, che bisogna essere ottimisti, che bisogna rispettare l'austerity e quant'altro. Penso che tu qualche cosa ne sappia, insomma, di questi temi. Senti, Marco, nei vari paesi che avete girato, quali sono stati i luoghi e le realtà che avete incontrato e conosciuto? Guarda, le realtà, sempre partendo dal basso, quindi dal popolo, dai cittadini, mi ha colpito molto. Ad esempio, ti faccio degli esempi emblematici. In Grecia siamo andati in questi centri di accoglienza che sostanzialmente si sono sostituiti alle nostre vecchie USL, e che danno appunto assistenza medica a tutte le persone che hanno perso con la crisi il diritto alla sanità. Sì. Quindi tutto quello che concerne anche cure mediche di prima necessità, diabetici, malati di, insomma, varie patologie, cuore, asma, e anche malattie più gravi. La cosa che mi ha colpito è stata quella che, appunto, dalle testimonianze che abbiamo sentito e poi abbiamo inserito nel documentario, che persone che sostanzialmente vivevano una vita tranquilla, normale, il cosiddetto ceto medio, improvvisamente nel giro di un anno e mezzo si sono trovati costretti ad andare in questi centri perché avevano perso tutto. Quindi mi ha colpito molto questo abbattimento repentino del ceto medio, più che del ceto povero, perché poi in fin dei conti diciamo il ceto povero tu te lo immagini che vive nelle difficoltà, no? Però quando viene colpito il ceto medio capisci che sta cambiando proprio l'asset sociale di un paese. Quindi mi ha colpito questo in Grecia, ossia che commercianti, liberi professionisti, persone di varia estrazione sociale, che comunque vivevano una vita abbastanza tranquilla, si sono trovati costretti in pochissimo tempo a dover usufruire dei servizi gratuiti di accoglienza perché hanno perso tutto. Quindi è impressionante, parliamo di migliaia di persone. In Spagna invece al contrario, diciamo, un problema diverso, quello dei pensionati, ossia abbiamo visto varie proteste in Spagna, manifestazioni grandissime, ma in particolar modo mi ha colpito una manifestazione di pensionati, quindi persone ultra settantenne, moltissime, si parla addirittura di milioni di pensionati, che sono stati sostanzialmente truffati dalle banche, facendogli firmare dei contratti capestre e praticamente queste banche con la ristrutturazione finanziaria dovuta alla crisi hanno congelato questi conti correnti in virtù di clausole fatte firmare, e quindi questi pensionati si sono ritrovati con il lavoro di una vita messa lì nel deposito della banca, che è sempre stata la loro banca per 15, 20, 30 anni, banchieri di fiducia, e si sono trovati senza praticamente più niente in banca. Mm-hmm. Quindi è un grosso problema, una piaga sociale che nessuno ne parla, infatti in Italia non è mai arrivata questa notizia, e che mi ha colpito moltissimo, perché poi vedi che in Italia ogni tanto ci sono dei piccoli crack, ma ancora un po', come dire, controllati, no? Banca Etruria, sentiamo ogni tanto qualche centinaio, qualche migliaio di persone. Voglio vedere se arriveremo a migliaia, spero di no, però ahimè tira una brutta aria. Senti Marco, ci sono anche degli esempi di soluzioni che la gente sta magari ha individuato e sta praticando anche a livello condiviso, a livello collettivo, magari delle piccole realtà, delle soluzioni? Sì. Guarda, diciamo, io cerco sempre, soprattutto negli ultimi 20 minuti dei documentari che faccio, la speranza, altrimenti se devo fare una cosa senza speranza veramente non riuscirei nemmeno a partire con un progetto. La speranza, in sintesi, sta nel titolo del film, La centesima machine, ossia ripreso appunto da un fenomeno realmente accaduto, che comunque è sempre strettamente legato tra leggenda e realtà, no? Comunque, andando a stringere, è un inno alla consapevolezza, ossia il primo passo è quello di diffondere una consapevolezza comune di questo problema, quindi diffondere l'informazione come fosse una catena umana, quindi un domino, e sperare veramente in un cambiamento radicale, perché alla fine ognuno di noi può essere l'elemento che poi può determinare un cambiamento. Quindi in prima analisi credo la speranza è quella fondamentale, di fare una massa critica comune, quindi sapere che c'è un problema, sapere quali sono le cause e cercare di essere consapevoli di questo, perché spesso e volentieri noi viviamo dei problemi ma non ne conosciamo le cause, spesso nemmeno sappiamo che è un problema finché poi non ci investe personalmente. Quindi il primo step è questo, cioè sì, la consapevolezza di questo determinato problema. E poi anche richiamo le cose, come dire, gli elementi base, gli elementi principali del benessere. Cioè la domanda è: siamo sicuri che stiamo vivendo un'epoca di benessere, che siamo tutti in una condizione migliore di quella di 20 o 30 anni fa? Siamo sicuri che siamo felici di quello che facciamo durante il giorno, oppure siamo incanalati in un meccanismo tale che dobbiamo svegliarci, andare a lavorare, tornare a casa, fare da mangiare, pagare il mutuo, arrivare ogni mese come dire risicati, e questo per 10, 20, 30 anni non ci rendiamo conto più che, nonostante tutto questo percorso restrittivo, che cosa manca rispetto a 30 anni fa? Manca la certezza, cioè i nostri padri facevano dei sacrifici ma avevano dei punti come dire fondamentali davanti a loro, cioè avevano delle certezze. Noi non abbiamo più queste certezze. Marco, il tuo lavoro è uscito online, e quale sarà il suo percorso prossimamente? Allora, il percorso che abbiamo seguito è quello di Sporchi da morire, il precedente documentario del quale sono stato onorato anche di presentarlo nella tua trasmissione radiofonica, e quindi uscita indipendente per essere poi liberi di poterlo, come dire, metterlo a disposizione di qualsiasi tipo di iniziativa sociale, culturale, di intrattenimento, quindi proiezioni pubbliche, cineforum, cinema e quant'altro. Quindi sì, lo step sì, è quello, uscita commerciale su Amazon, che è un po' come dire il portale più importante, ma anche quello che ti permette anche una spedizione veloce, ti abbatte un po' i costi per poter arrivare nelle case delle persone in pochissimo tempo. Parallelamente a questa uscita su Amazon c'è un sito che si chiama peoplefree.tv, o in alternativa la pagina Facebook ufficiale del film, che è La centesima scimmia, dove chiunque può fare richiesta di proiezione, e prendendo il DVD su Amazon oppure glielo spediamo noi, fa parte tutto un meccanismo tale che è possibile appunto proiettarlo dove si vuole. Credo che sia la strategia distributiva migliore, perché altrimenti, seguendo l'iter tecnico tradizionale, ci troviamo poi nel solito meccanismo che tu conosci benissimo, ossia sì, il tuo documentario esce nel cinema, dopo una settimana sparisce, casomai non ne detieni nemmeno più i diritti, non lo puoi più proiettare nemmeno in modo libero in un'altra situazione, ma nemmeno puoi farlo proiettare agli altri, quindi diventa un po' complicato. Io spero che questo progetto, con questa prima fase, sia possa camminare così liberamente, per poi arrivare al free online da qui a breve tempo, in modo che poi tutti possano avere accesso al film, anche se poi è una mia battaglia di dignità, è una morale la mia, cioè la mia battaglia da filmmaker indipendente è quella di fare intrattenimento, di fare progetti sociali, ma mantenere anche un piglio commerciale, perché la gente deve capire che è complicatissimo realizzare questi progetti, perché non sono progetti che si fanno con pochi soldi e con poco tempo, e quindi è una mia battaglia da molti anni, quella di far capire che è importante la ricaduta commerciale di un progetto come questo, non tanto per arricchirsi, ma perché più gente la vede, più significa che questo progetto sta camminando. Sì. Marco, io ti ringrazio, un abbraccio, speriamo di risentirci presto con belle novità. Sì, spero anche io di informarti presto sui nuovi progetti, e ti ringrazio caldamente per questa tua attenzione costante su progetti, come dire, tra virgolette scomodi. A presto, ciao Marco. Grazie, ciao. Buon lavoro, un saluto grazie. Ascoltatore. Ciao. Grazie a te. Marco Carlucci, regista del documentario La centesima scimmia, uscito online. Con Daniele Gaglianone per parlare del suo documentario Una stanza di casa mia, Val di Susa e dintorni, conversazione con Luca Rastello. Daniele, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, ciao. Tra l'altro ti porto i saluti di Cristiano Regina, che abbiamo sentito poco fa con il suo documentario La parte che resta. Benissimo. Senti Daniele, ricambio. Bene. Allora, raccontaci un po' di questo lavoro che qualche settimana fa hai presentato qui a Roma all'Apollo 11 e stai portando un po' in giro per l'Italia. Sì, lo sto portando in giro con una bella risposta ed è anche una bella sorpresa per me, perché una stanza di casa mia nasce, diciamo, da una costola del mio documentario sulla Val di Susa e la lotta contro la Torino-Lione, che documentario di giorni fa qui. Quando si trattava di costruire l'extra del DVD in uscita, avendo un'ora a disposizione, è stato quasi naturale inserire un montaggio di una lunga conversazione con Luca Rastello, che avevo avuto quando stavo girando il documentario. La conversazione era molto bella, però per motivi, come dire, di scelte che si devono fare, soprattutto in un documentario, rispetto al montaggio, alla linea narrativa scelta, avevo deciso di non inserire nulla, perché comunque, diciamo, lui affrontava una questione, anche se con grande passione, però una questione più tecnica, no? Era più una testimonianza di un reporter attento e molto legato alla valle, però non era come dire una storia personale di un militante, ecco. Sì. E quindi però quando c'è stata la possibilità di inserirlo, l'ho fatto con molto piacere, anche perché, insomma, Luca era un amico importante, insomma c'era grande complicità fra di noi e, insomma, è stato anche, come dire, un tentativo di non so come dire di incontrarlo ancora una volta, ecco. Non lo posso più incontrare, nessuno di noi lo può fare, però ecco, come dire, guardando questa ora in cui lui racconta del suo viaggio fatto insieme ad Andrea De Benedetti in questo fantomatico corridoio 5 da Lisbona a Kiev, per verificare insomma una cosa di cui era il sospetto, che questo corridoio non esiste, non esisterà mai, e insomma lui racconta per questa avventura anche picaresca in certi momenti, insieme a delle riflessioni molto dense sullo stato delle cose. Ecco, è una conversazione del 2012, quindi alcune cose vanno anche un po' contestualizzate, però ecco, devo dire che è un'opportunità di rincontrare una persona che non c'è più, per quelli che l'hanno conosciuto, e incontrare magari per la prima volta una persona che abbiamo magari conosciuto attraverso i libri o di cui abbiamo sentito parlare. Ecco, io spero che chi guarda questo documentario alla fine abbia questa sensazione, ecco, di aver incontrato una bella, bellissima persona che secondo me è una delle cose di cui si dibatte molto in questo periodo, quando tra di noi, tra gli amici e anche in occasione di presentazione di questo filmato, è l'idea un po' amare, anche un po' incazzata, del fatto che Luca era uno dei migliori giornalisti in circolazione e che non era, ahimè, un personaggio conosciuto. È una delle tante occasioni, purtroppo non ne mancano, che ti fanno riflettere amaramente sulla natura e i destini di questo paese, perché uno così, cioè quando lui ad esempio parla durante la conversazione, che chiede permesso al capo di fare questo viaggio, di fare questo reportage, alla fine quasi ironicamente mi viene a dire: ma chi poteva fare il capo di questo qua? Cioè ecco, invece insomma credo che era per il mondo della cultura italiana, anche se come dire i suoi libri sono bellissimi e resteranno loro, sì che resteranno, al di là di molti altri libri di cui si parla tanto magari o di più non resteranno, ma i suoi, La guerra in casa, Binario morto, La frontiera addosso, I buoni, l'ultimo romanzo, La piove all'insù, resteranno, sono libri che diranno la loro ancora per molto moltissimo tempo. Però è chiaro che come aver tenuto in panchina un fuoriclasse, Luca amava il calcio, no? Come aver tenuto in panchina un Roberto Baggio, per un nome. Daniele, come è avvenuto l'incontro con Luca e dove e come ha spaziato la vostra conversazione? Ma dunque, l'incontro in generale con in Luca, generale, come vi siete conosciuti? In generale sì. Ci siamo conosciuti tramite comuni amici e devo dire che ero molto emozionato quando l'ho incontrato, perché per me Luca Rastello era Luca Rastello, quello che aveva scritto La guerra in casa, che è uno dei libri più belli, non solo sulla questione jugoslava, ma in generale sul rapporto con la guerra da parte di noi occidentali, diciamo così, noi europei. È un bellissimo libro che consiglio a tutti di leggere, anche se non si occupano di cose balcaniche, non fa niente, lo leggano. Ero molto emozionato, e poi in realtà ho scoperto che anche lui era un po' emozionato, perché gli era piaciuto moltissimo I nostri anni, il mio primo lungometraggio, quindi è stato un po' buffo. E da lì abbiamo iniziato a frequentarci, una frequentazione anche fatta di lunghe telefonate e di appunto di complicità, più che non solo di uscite insieme. E poi ogni occasione era buona per vederci, visto che i miei interessi e i suoi si sono incrociati più volte, dal mio documentario in Bosnia e da tutto quello che lui ha fatto per i profughi bosniaci, alla mia classe, sì, con Mastandrea sulla classe di immigrati, e tutto il suo lavoro che appunto ha trovato corpo in La frontiera addosso, il libro su come l'Europa gestisce in modo criminale il fenomeno dell'immigrazione. E poi in ultimo, ma non meno importante, anzi importantissimo, la questione del movimento Notav e l'Orte Mal di Susa contro la Torino Lione. Quindi insomma ci siamo, ogni occasione va buona per, che ne so, per invitarla a qualche presentazione, fare qualche dibattito insieme. Io devo dire, ho un ricordo veramente bellissimo, quasi straziante, l'ultimo incontro che abbiamo fatto quando lui è venuto a Torino Film Festival. Stava già, devo dire, molto male, però ci teneva molto a venire con me a presentare, insomma a dibattere sul documentario in Val di Susa. E c'è anche, insomma, su YouTube si può anche vedere questo incontro. Devo dire che Luca dimostra ancora una volta lì di la sua grande capacità di narratore, di lettore attento della realtà. E questa conversazione, appunto, quando io ho iniziato a fare il documentario sulla Val di Susa, era naturale per me, sarebbe stato naturale e doveroso, anche se non l'avessi conosciuto, lo sarei dovuto andare a cercare, però non si poteva non parlare con Luca Rastello della Val di Susa, perché Luca, anche se il binario morto non era ancora uscito, negli anni 90 per Diario fu uno di quelli che seguì, diciamo, in modo più intelligente, più approfondito e anche in modo, come dire, più inquietante, ma non inquietante non il suo seguire, ma inquietante quello che poi ci ha raccontato, tutta la vicenda che negli anni 90 ha visto, come dire, la Val di Susa come dire, teatro di cose torbide, inquietanti, poco chiari, traffici d'armi dove pezzi dello Stato erano implicati, e in questo contesto i due ragazzi Sole e Baleno sono stati schiacciati, e come dire, lo stesso Luca lo dice nella conversazione quando parla del loro suicidio, sottolinea suicidio indotto, ecco, di questi, di questi due giovani. Insomma, era naturale, obbligatorio parlare con Luca. Poi, insomma, essendo un amico, oltre al dovere si sommava anche il piacere. Infatti questa conversazione, che chiamo conversazione, ma che in realtà, insomma, ovviamente parlava molto di più lui, giustamente. Però ecco, credo che traspaia il fatto che stia parlando con qualcuno con cui aveva un'intesa, ecco, e quindi ecco, è una conversazione molto il suo conversare è un conversare molto naturale, insomma, non è una conversazione molto molto precisa, molto puntuale, quando deve esserlo, però, come dire, quella leggerezza del racconto fatto a un amico. Daniele, che percorso farà questo tuo lavoro? Guarda, io sono sorpreso dal fatto che molti lo chiedono per proiettarlo, perché appunto io l'avevo pensato, diciamo, tra virgolette, solo come un extra in UB, ma sì. Questa cosa qua che insomma, che si organizzi una proiezione, mi fa ancora più piacere, ecco. E credo che l'intenzione sia quella di penso di andare a Napoli insieme magari al documentario qui, forse a Ferrara, forse durante il Festival Internazionale, non lo so se ci sono dei contatti per capire se si può fare, però ecco, spuntano qua e là le richieste di proiezione. Ne ho fatto una Torino l'altro giorno, e ecco, non ha una distribuzione, diciamo, sistematica, però, come dire, siamo abituati a questo tipo di situazione. Però ecco, credo che sia, ecco, è lì a disposizione di chi vuole prenderselo, ecco. È visionabile prendendo il DVD di qui, e quindi nell'extra c'è appunto una stanza di casa mia. E credo che essendo anche una bella occasione per far riparlare e riparlare di Luca, credo che appunto sia un oggetto, diciamo così, sia un filmato che può essere usato in molti modi, sia per parlare della questione della Val di Susa, sia per ricordare e continuare a riparlare di Luca e di che cos'era, di cosa avrebbe potuto essere, ecco. Per saperne di più, immagino ci siano canali come pagine Facebook per proprio specifici sul Una stanza di casa mia. Sì, credo che insomma anche sul sito della distribuzione, la Chio, sì. E anche credo su quel sito della Pablo, credo che ci siano le eventuali proiezioni. Chio scritto K-I-O, ci siano sicuramente eventuali proiezioni in giro per l'Italia, ecco. Bene, Daniele, io ti ringrazio, speriamo di risentirci presto, un abbraccio. Grazie, un abbraccio a voi. ciao, alla prossima. Alla prossima. Daniele Gaglianone, regista del documentario Una stanza di casa mia, Val di Susa e dintorni, conversazione con Luca Rastello. E con lui chiudiamo l'appuntamento settimanale con Visionari. Tutti i giovedì il cinema su Radio Onda Rossa dalle 14 alle 15. Avremmo dovuto sentire anche Elisa Mereghetti, regista del documentario Kevin, Will My People Find Peace, ma ha avuto una difficoltà, quindi magari slittiamo la settimana prossima. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming sull'home page del sito della radio ondarossa.info, c'è Ascolta la diretta. Per le informazioni sulla trasmissione, sulla scaletta, il sito della radio sull'home page, colonna centrale trasmissioni Visionari, la pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info.